Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Appuntamento con l'Associazione Difesa Consumatori, l'Adico, come spesso capita, insieme a Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Un saluto a te Francesco e agli amici in ascolto. Allora Gianluca, l'argomento di oggi, parliamo ancora di bollette? Parliamo di bollette perché ovviamente sono un tema che interessa molto le famiglie, gli utenti eccetera, visto che bene o male rappresenta appunto la nostra quotidianità. Però ecco, parliamo di bollette in questo caso a seguito di un'importante sentenza del giudice di pace di Treviso, che appunto ha dato ragione a un nostro socio, difeso dal nostro ufficio legale, ed è andato ad annullare una fattura da oltre 4.200 euro per la fornitura di gas. Però. Ecco, è una sentenza molto importante perché va in una direzione che noi cerchiamo sempre di mettere in evidenza, ovvero noi diciamo sempre anche alle persone che si rivolgono a noi, magari anche un po' scettiche, dicendo: ho ricevuto questo tipo di bolletta, vorrei contestarla, ma tanto sono sicuro che non otterrò nulla. Ecco, noi diciamo, non è vero, le bollette si possono contestare e molto spesso si ottengono anche dei risultati molto soddisfacenti, come in questo caso in cui abbiamo ottenuto appunto l'annullamento di una bolletta da 4.300 euro circa. La cosa che mi viene subito da chiederti è: ma questa bolletta era legittima o proprio era un errore? Allora, la questione è complessa, tra virgolette, nel senso che Eni a un certo punto si è fatta emettere dal giudice di pace di Treviso un decreto ingiuntivo nei confronti appunto di questo utente trevigiano, tramite il quale appunto si intimava il pagamento di questa bolletta di 4.300 euro. Per far emettere questo decreto ingiuntivo è stata sufficiente la presentazione da parte di Eni delle fatture, delle bollette che Eni dice di aver inviato appunto al nostro socio. Da questo punto di vista bisogna dire che il nostro socio dice di non avere mai ricevuto nulla da parte di Eni, tantomeno l'ultimo avviso, l'ultimo avvertimento, che è appunto l'adempimento al pagamento, al che significa che il nostro socio ha ricevuto semplicemente il decreto ingiuntivo, o dice di aver ricevuto semplicemente il decreto ingiuntivo con il quale Eni intimava il pagamento appunto di questa fattura da 4.300 euro. In giudizio, nell'opposizione, sempre di fronte al giudice di pace di Treviso, tramite il nostro ufficio legale, il socio ha contestato di non aver mai ricevuto di queste bollette e in sostanza ha contestato i consumi che teoricamente Eni gli affibbiava. Spero che gli utenti, le persone, le famiglie capiscano bene questo concetto, ovvero quando ci si trova di fronte a un decreto ingiuntivo, l'onere della prova a questo punto spetta non al debitore ma al creditore, ovvero in questo caso le fatture con cui è stato emesso poi il decreto ingiuntivo non sono sufficienti per dimostrare che veramente sia stato fornito il quantitativo di gas contestato in bolletta. Eni avrebbe dovuto presentare piuttosto le fatture del distributore, cioè le fatture che in realtà ha dovuto pagare lei al distributore, con le quali si dimostra chiaramente la quantità di gas consumato. In questo caso Eni non ha presentato quelle fatture, ma non ha neanche presentato prova di aver inviato le bollette al nostro socio. Ecco, chiaramente il giudice, di fronte a questa situazione, ha specificato quanto è già stato detto in altre sentenze, ovvero la fattura è sì titolo idoneo per l'emissione quindi di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, però se c'è un'opposizione la stessa fattura non costituisce prova dell'esistenza del credito, quindi le fatture con cui è stato emesso il decreto ingiuntivo poi durante l'opposizione non sono state sufficienti a dimostrare che realmente Eni aveva fornito quella quantità di gas al nostro socio. E allora a questo punto, non avendo portato le prove reali della fornitura di gas, il giudice ha deciso l'annullamento di quelle fatture e aggiungiamo che anche stabilito che Eni dovesse anche pagare le spese legali. Certo. Quindi ci troviamo di fronte a una sentenza, ripeto, molto importante, che però non è isolata, e quindi l'invito che noi rivolgiamo a chiunque si rifornisca di gas e di energia elettrica, quindi a chiunque riceva un decreto ingiuntivo da parte dell'azienda e ritenga che sia un decreto ingiuntivo, una richiesta di pagamento non dovuta, è importante che ci si opponga, che si contesti, perché come in questo caso si può vedere che se si hanno le ragioni dalla propria parte il giudice le riconosce e quindi si arriva a un giudizio molto positivo come questo, che è appunto l'annullamento delle bollette ma anche il mancato pagamento delle spese legali che sono state in questo caso affidate ad Eni. Ecco, la cosa che mi salta un po' all'occhio è che quindi il fornitore di energia, di corrente elettrica, di gas, di quello che è, dovrebbe mandare le bollette tipo con raccomandata con ricevuta di ritorno a questo punto. Sì, l'abbiamo detto spesso anche durante la tua trasmissione, noi abbiamo sempre detto a tutti che solo la raccomandata con ricevuta di ritorno o le PEC rappresentano un documento legale, che ha un valore appunto legale. Per il resto chiaramente una raccomandata senza ricevuta di ritorno perde di valore legale, perché la persona che dovrebbe riceverla potrebbe anche non riceverla, non si può testimoniare che l'abbia ricevuta. In questo caso tra l'altro Eni non è proprio riuscita a dimostrare di aver inviato queste bollette al nostro socio, infatti il nostro socio ha sempre detto che queste bollette non le ha mai ricevute. Sicuramente quando c'è una raccomandata con ricevuta di ritorno o una PEC, chiaramente ci si trova di fronte a una documentazione incontestabile. Certo. In questo caso non è stato così e per fortuna la persona in questione, questo imprenditore trevisano, non ha mollato la presa, anche perché la cifra era abbastanza importante, oltre 4.000 euro, per cui ha contestato e il giudizio tra l'altro non è stato brevissimo, comunque insomma al di là di quello ha portato a un risultato molto soddisfacente. Certo. Sia per il socio che per la nostra associazione. Non è il primo caso però, Francesco, lo sottolineiamo, quindi mai mollare, mai arrendersi se si ritiene di essere dalla parte della ragione. Bene, io credo che anche qui abbiamo dato un racconto che può essere utile a qualcuno. Grazie quindi all'Adico, ricordo il sito associazionedifesaconsumatori.it, e grazie a te Gianluca, ci risentiamo la settimana prossima, perché lunedì è lunedì di Pasquetta e quindi la nostra trasmissione si prende un piccolo periodo di pausa. Grazie a te Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.